Benvenuto a tutte quante e a tutti quanti, buonasera, herzlich willkommen. Questa serata fa parte di un programma elaborato dall'Università di Bolzano con la collaborazione di altri istituti, con il Centro di Storia Regionale, di competenza di storia regionale, e in questo caso appunto abbiamo con noi questa sera anche la professoressa Francesca Brunette, che ci aiuterà in questo dialogo, in questa conferenza con la nostra ospite che viene dall'Università di Trento e adesso scusate ma ho mille, ecco, la professoressa Rosa Salzberg. Allora, il titolo l'avete visto e abbiamo anche tutti la locandina: storie di mobilità, marginalità e repressione tra passato e presente nel cinema, nell'arte, eccetera. Quindi ci sono una serie di appuntamenti. Il primo è stato molto bello ed è stato un percorso per la città interessantissimo. Chiedevo appunto se ci sarà l'occasione di ripeterlo, magari col favore della luce in primavera, perché sarebbe bello da riproporre. È molto interessante scoprire la città, alcuni angoli della città legati a questo tipo di argomento, quindi una modalità completamente diversa di approcciarsi a degli angoli della città che spesso forse passano anche inosservati. Ci tengo a darvi questo benvenuto e dare il benvenuto anche ai nostri gentili ospiti, perché fa parte di uno dei tanti tasselli di questo percorso a cui teniamo particolarmente e per il quale abbiamo costruito e costruiremo ogni volta, di volta in volta, una bibliografia. C'è un piccolo saggio qua dietro. La biblioteca ha questo scopo, quello di promuovere la lettura, di promuovere la conoscenza, di approfondirla anche con un ritmo lento, quindi non solo con le piattaforme digitali, con gli strumenti che per fortuna esistono al giorno d'oggi, ma anche attraverso una lettura più tradizionale che ci permetta anche di riflettere, di approfondire, insomma, gli argomenti. La locandina ce l'avete per i prossimi appuntamenti. Quello della biblioteca sarà di nuovo il 13 di novembre e poi ci ritroveremo anche il 27 di novembre. Quindi questo è il primo di tre, ma nel contesto più ampio potete trovare anche gli altri appuntamenti con le altre istituzioni. Avevo promesso alle nostre ospiti, anzi avevo chiesto alle nostre ospiti di avere pazienza un attimo, perché approfittiamo sempre per raccontarvi un po' quello che facciamo. Quindi questa serata appunto sulle strade e nelle città, povertà, migrazioni e mobilità tra l'Italia e l'Europa del Rinascimento, apre per noi questa rassegna. La biblioteca comunque anche l'11 ottobre, cioè mercoledì alle 17.30, avrà un'altra occasione di incontro con un gruppo di lettura, il gruppo di lettura Tutti Saggi, che sta andando avanti da un paio d'anni, e il concetto su cui si lavorerà e si leggeranno dei libri è quello della bellezza. La prossima settimana torneremo con una conferenza di carattere storico, questa volta sarà l'occasione di parlare della terra irridente, terra incognita, l'ora delle armi al confine orientale 1914-1918 con Fabio Todero, che da anni torna e ci racconta una visione dell'Italia nord-orientale, del confine appunto della Venezia Giulia, e con lui ci sarà il professor Andrea Di Michele la prossima settimana alle 17.30 qui. E infine, alla fine di ottobre, il 25 ottobre alle 17, saremo di nuovo tutti insieme per un gruppo di lettura con il libro di Sara Poma, Il coraggio verrà. E questo è il gruppo di lettura localmente. Grazie. Io vi ringrazio per l'attenzione, vi invitiamo a tornare a trovarci, a seguire con attenzione anche questo bellissimo programma e di venire a trovarci anche qua in biblioteca. Se avete piacere, potete iscrivervi e riceverete tutte le informazioni ogni settimana. Grazie. Grazie e buonasera a tutti e a tutte. Sono molto contenta di essere qui, di essere ospite della Biblioteca Claudia Augusta. Ringrazio specialmente Valeria Trevisan e Patrick Urru per l'ospitalità e la coorganizzazione di questo secondo appuntamento, come citava prima la dottoressa Trevisan di un ciclo di conferenze appunto organizzato dal Centro di Competenza Storia Regionale della Libera Università di Bolzano, dal titolo Storie di mobilità, marginalità e repressione tra passato e presente, cinema ed arte. Vorrei dire solo due parole prima di dare la parola a Rosa Salzberg su questa iniziativa, cioè sulla cornice all'interno della quale si colloca questa conferenza, l'appuntamento di oggi. Si tratta appunto di un ciclo di conferenze che, grazie alla presenza di esperti ed esperte, come la relatrice di oggi, vuole proporre alcuni affondi su diverse storie, non a caso ho scelto di usare il plurale appunto nel titolo storie, storie di persone mobili, storie di persone marginali o marginalizzate, andando ad indagare in particolare le connessioni tra mobilità, povertà, marginalità sociale, indagando anche l'accesso o il negato accesso dei poveri mobili o senza fissa dimora, diciamo, a forme di sostegno, di assistenza pubblica, o ancora i fenomeni di repressione, di marginalizzazione o di vera e propria persecuzione di persone, diciamo, indesiderate, considerate come un problema sociale anche in virtù della loro mobilità. Il sottotitolo del ciclo di iniziative, tra passato, presente, cinema ed arte, sta proprio a sottolineare da un lato come i temi di volta in volta oggetto di questi appuntamenti verranno indagati specialmente naturalmente in chiave storica, ma si tratta di questioni che hanno tuttora implicazioni estremamente attuali. Dall'altro lato il sottotitolo vuole segnalare come appunto queste storie di mobilità, di marginalità e di repressione verranno presentate e discusse attraverso, diciamo, varie forme di comunicazione, no? Sentiremo allora delle conferenze come oggi, ma guarderemo e discuteremo dei film, delle collezioni di immagini. La dottoressa Trevisan citava prima il primo appuntamento del ciclo di conferenze al quale alcuni di voi hanno partecipato, ossia la visita guidata tematica per la città di Bolzano. Non rubo altro tempo alla relatrice, che ringrazio di cuore per aver accettato il mio invito di partecipare a questo ciclo di conferenze. La presento brevemente. Rosa Salzberg è professoressa associata presso il Dipartimento di Sociologia e di Ricerca Sociale all'Università di Trento e prima di approdare a Trento è stata assistente e poi professoressa associata di Storia del Rinascimento presso il Dipartimento di Storia all'Università di Warwick nel Regno Unito e prima ancora ha insegnato sempre Storia del Rinascimento come docente a contratto presso il Dipartimento di Storia dell'Università di Melbourne in Australia. Rosa Salzberg è quindi un'esperta di storia delle migrazioni, storia della mobilità, di storia urbana e storia della comunicazione in età moderna, quale migliore relatrice per introdurci nei temi di questo ciclo di conferenze. E tra le sue molte pubblicazioni cito almeno le sue due ultime fatiche, se vogliamo definirle così, che sicuramente le avranno dato molte soddisfazioni. Entrambe pubblicate quest'anno, cioè la monografia The Renaissance on the Road, Mobility, Migration and Cultural Exchange, pubblicata da Cambridge University Press, e la co-curatela del volume Connected Mobilities in the Early Modern World, The Practice and Experience of Movement, edito dalla Amsterdam University Press. Ecco, nella sua relazione di oggi, Rosa Salzberg ci presenterà una panoramica su un tema che ritengo essere centrale per la storia sociale dell'Europa moderna, ma che caratterizza fortemente anche il nostro presente, cioè le connessioni tra mobilità e povertà, tra migrazioni e povertà. Il titolo della sua relazione è già stato citato, sulle strade nelle città, povertà, migrazioni e mobilità tra l'Italia e l'Europa del Rinascimento. Prego. Grazie, cambiamo il PowerPoint. Intanto grazie a Francesca per dell'invito e anche grazie alla biblioteca e a tutti e tutte voi che siete venuti. Mi sentite bene? No, è acceso. Sì. Forse è più vicino. Così va meglio? Sì? Ok. E anche perché ho un po' perso la voce la settimana scorsa, quindi spero di durare un'ora. E come sentite anche dal mio accento, del mio corso di mobilità personale, è diverso da come sembra dal mio cognome, non sono austriaca o tedesca, sono australiana, quindi vi chiedo scusa di non né poter parlare in tedesco e solo nel mio italiano non perfetto. Aspetta che mi sposto un po' più. Ecco, ok. Quindi in questa conferenza vorrei offrire un panorama della mobilità nell'Europa del Rinascimento e della mobilità dei poveri in particolare. Quindi stiamo parlando di un periodo tra circa metà del 400 e metà del 600 di crescente mobilità, compresa quella dei poveri, e anche di crescente preoccupazione per la mobilità, soprattutto la mobilità dei poveri. E quindi oggi presterò un'attenzione in particolare a Venezia, che è la mia principale area di ricerca, e anche alla zona compresa tra Venezia e i passi alpini che conducevano al Nord Europa, e mi baso in particolare su il libretto, piccolo libro che Francesca ha menzionato, che ha pubblicato qualche mese fa, e The Renaissance on the Road, e anche su un altro progetto a cui sto lavorando, sulla storia di Venezia come centro di migrazione e mobilità nella prima età moderna. Quindi chi cerca di studiare le connessioni tra povertà e mobilità nel passato, soprattutto nel passato più lontano, deve subito affrontare un problema. E già è estremamente difficile esaminare le esperienze, le storie della maggior parte delle persone comuni nell'era premoderna, ma sia la povertà che la mobilità rendono questo compito anche più impegnativo. I poveri in movimento sono le persone che hanno lasciato forse meno tracce di se stesse e le tracce più disperse nella documentazione storica. Quindi la domanda con cui inizio è: come studiare connessioni tra povertà e mobilità nel Rinascimento, nell'epoca moderna? Oggi non mi concentrerò solo sui migranti più poveri, i vagabondi, che sono al centro di questo ciclo di conferenze. E cercherò di dare un'idea più ampia del modo in cui i poveri viaggiavano insieme, accanto a volte ad altri tipi di persone, persone che magari avevano più possibilità di scelta e di azione su dove e come si spostavano e che si muovevano con maggiore comodità. E faccio in questo modo perché ritengo che questo approccio possa aiutarci a capire anche qualcosa dei meno fortunati, dei più marginali. E questo per diversi motivi. Primo perché, vedete bene? Ok. Perché molti tipi di viaggiatori e migranti, sia i ricchi che i poveri, passavano e condividevano gli stessi spazi. A volte, sto parlando delle strade per esempio, ma anche le locande, le osterie, le porte delle città. Secondo perché tutti questi viaggiatori migranti erano soggetti, anche in modo ingiusto e diseguale, ad alcuni degli stessi sistemi di controllo che le città e gli stati in quel periodo imponevano sempre più spesso ai viaggiatori. quindi controlli alle frontiere, quarantene, uso di documenti di identificazione, per esempio. E infine perché, come oggi, le questioni relative a chi era autorizzato a spostarsi, come e dove, erano strettamente connesse, tanto che non possiamo e non dobbiamo, secondo me, separarle. Quindi chi era accolto, chi era tollerato e chi era allontanato da un luogo, dal mercante o nobile più ricco al vagabondo più povero, questi erano problemi collegati tra loro e così sono stati spesso affrontati dalle autorità di varie città. Quindi secondo me abbiamo bisogno di questo quadro più ampio per farsi un'idea dei modelli, delle percezioni della mobilità dell'epoca anche per i poveri in movimento. Quindi per dare una piccola scaletta della conferenza di oggi, nella prima parte della presentazione vorrei considerare chi si muoveva lungo le strade d'Europa e in particolare la regione tra Venezia e le Alpi, perché si muoveva e come. E poi nella seconda parte presterò attenzione ai tipi di sistemi, delle infrastrutture, di spazi creati o già in funzione in questo periodo. Osterie, ostelli, anche le porte, le mura delle città, che erano stati progettati per facilitare, ma anche a volte per controllare la mobilità. E queste infrastrutture erano fondamentali perché? Per alcuni motivi. Perché fungevano non solo da punti di contatto tra diversi tipi di persone in movimento, come dicevo, mercanti, pellegrini, vagabondi, artigiani, eccetera, ma anche tra migranti e viaggiatori e membri delle comunità locali, quindi punti di incontro, di scambi, anche di conflitto. Come dicevo, membri della comunità locale, per esempio osti, locandieri, anche guardiani alle porte, per esempio. Quindi il studio di questi spazi, luoghi, infrastrutture ci permette anche di vedere quanto la mobilità e l'immobilità fossero profondamente intrecciate in questo periodo, quanto il passaggio e l'arrivo degli stranieri modellassero le comunità locali, non solo nelle grandi città cosmopolite, per esempio Venezia, ma anche in luoghi di transito apparentemente più periferici. Quindi mobilità e immobilità profondamente intrecciate, ma vorrei in questa presentazione anche suggerire due altre cose. Prima, che la mobilità e la povertà erano strettamente connesse in questo periodo, come ai nostri giorni, come vediamo spesso, i poveri erano spesso costretti a spostarsi per cercare lavoro e sostentamento, per sfuggire a conflitti o disastri. Ma i loro spostamenti erano anche fonte di grande preoccupazione, sempre come ai nostri giorni, perché erano visti come rischi per la sicurezza pubblica, come un costo forse inutile per le casse pubbliche, ma anche perché i poveri furono visti spesso come portatori di malattie o di idee pericolose. Quindi vediamo in atto una tensione fondamentale tra il riconoscimento dei benefici della migrazione e la gestione dei rischi percepiti che si ritenevano associati all'accoglienza. Dunque, decidere se permettere a persone provenienti da altri luoghi di entrare o passare attraverso determinate comunità era un problema sempre più sentito in questo periodo e sempre punto di grande dibattito. Ok, dopo queste premesse arrivo alla sostanza della presentazione. E fino adesso ho evidenziato alcuni parallelismi con il presente, ma che dire delle differenze? E ci sono differenze importanti per quanto riguarda chi si metteva in viaggio in questo periodo e da dove proveniva. metto questa mappa per... No, no, okay. E, solo per ribadire il fatto che l'Italia settentrionale era un crocevia di molti tipi di movimento, mobilità, migrazione nel Rinascimento, e questa regione in particolare era da tempo un'importante arteria di spostamento tra la penisola e il nord Europa attraverso il Brennero e altri passi alpini. Molte strade però portavano in particolare a Venezia, una delle più grandi città d'Europa, un grande centro di transito e una destinazione per i migranti provenienti soprattutto dalla terraferma italiana, ma anche dalle attuali parti dell'attuali Grecia, Croazia, che allora facevano parte dello Stato veneziano. Quindi chi era mobile, chi era sulle strade dell'Europa e di questa regione nel Rinascimento? Stiamo parlando di diverse categorie di persone e nomino velocemente alcuni prima di arrivare ai poveri veri e propri. Stiamo parlando di mercanti, per esempio tanti mercanti tedeschi da città come Augusta, Norimberga, che andavano verso spesso Venezia, passavano periodi lunghi lì nel fondaco dei tedeschi per commerciare. Anche pellegrini, ancora un buon numero in questo periodo, anche se in leggero calo rispetto al Medioevo. Artigiani, architetti, artisti, musicisti che si spostavano per apprendere o trasmettere nuove competenze, per accettare commissioni in città diverse. E possiamo notare che le carriere della maggior parte degli artisti rinascimentali prevedevano tali periodi di mobilità. Se pensiamo dell'esempio di Albert Dürer, che come probabilmente sappiamo tutti, che è passato questa regione ben due volte andando verso Venezia e lasciato questa vista di Trento, e possiamo anche pensare di altri esempi di artisti italiani che sono andati in altre parti dell'Europa. Poi anche molto importante, diplomatici, funzionari impiegati dagli stati rinascimentali. Però è questo importante, che spesso viaggiavano con grandi entourage enormi, a volte se pensiamo di un esempio come l'imperatore dell'impero sacro romano Carlo V, che nel 1536 ha viaggiato dal Nord Africa in Germania, è passato per l'Italia con circa 10.000 soldati, servitori, nobili che lo scortavano, quindi a volte gruppi molto grandi. E poi bisogna menzionare anche i primi turisti o prototuristi, se vogliamo, in questo periodo, persone, spesso di solito uomini dell'elite, che venivano spesso in Italia per imparare lingue, studiare, vedere tesori artistici. Un esempio famoso è quello dello scrittore nobile francese Michel de Montaigne, che venne in Italia alla fine del Cinquecento, ha lasciato anche un diario di viaggio molto prezioso come fonte per noi storici. Ma questi ovviamente sono principalmente i viaggiatori, i migranti più elitari. Non sono i vagabondi, sono persone che probabilmente erano ben accolte nei luoghi in cui si recavano, perché si riteneva che portassero benefici all'economia o alla cultura locale o vantaggi politici di qualche tipo. Sono persone che di solito potevano permettersi di pagare forme di trasporto più confortevoli come cavalli, carrozze, e un letto in una locanda o presso un rappresentante locale. persone che talvolta lasciavano, come nell'esempio di Montaigne, una qualche testimonianza scritta dei loro viaggi in modo di poterla studiare ora. E in effetti la maggioranza del lavoro su questo argomento ha riguardato questo tipo di viaggiatore o migrante, in parte per questo motivo, perché ci sono le fonti storiche. Ma come suggerisce l'esempio del Carlo V, l'imperatore Carlo V con il suo entourage di 10.000 persone, e in molti casi stiamo parlando anche di servitori che si spostavano insieme ai viaggiatori più abbienti e che potevano condividere camere e tavoli, attraversare cancelli, porte, spezioni, insieme ai loro datori di lavoro, anche se spesso in condizioni meno confortevoli. Quindi già qui possiamo iniziare ad ampliare la nostra comprensione di chi si muoveva, di perché si muoveva, per vedere come spesso anche le forme di viaggio più elitarie non possono essere separate da altre forme di migrazione, in questo caso migrazione per lavoro. Se pensiamo dei servitori, perché la maggior parte delle persone che si muovevano lungo le strade e le vie d'Europa nel Rinascimento lo facevano per cercare un lavoro e di solito lo facevano perché i luoghi da cui provenivano non offrivano opportunità economiche o addirittura per sfuggire alla povertà cronica o alla fame. E quindi nel mio libro, piccolo libretto che ho menzionato all'inizio, comincio quel libro con il suggerire che il prototipo del migrante rinascimentale non era un personaggio come Montaigne o Dürer, ma uno più vicino al personaggio dello Zanni, della prima commedia dell'arte. Chi è lo Zanni e perché lo Zanni? Quindi se non lo conoscete bene, lo Zanni è un personaggio centrale della commedia dell'arte, degli esordi, è un servitore. Nelle commedie di questo periodo, quindi stiamo parlando dalla seconda metà del Cinquecento in poi, ci sono varie commedie che descrivono le sue vicende rappresentato come un povero uomo costretto a lasciare la penuria rurale della sua casa nelle montagne del Bergamasco per dirigersi verso una ricca città della pianura italiana, spesso a Venezia. Quindi in alcuni scenari, alcune poesie, viaggia a piedi, incontra tutte le difficoltà della strada, dalle intemperie ai briganti. In alto qui abbiamo una poesia che racconta come lo Zanni raggiunge Venezia e rimane abbagliato dal rumore, dalla folla e dall'abbondanza di merci, perché lo Zanni è sempre anche rappresentato come molto affamato. Nella sofisticata metropoli il suo dialetto rustico lo segnala subito come un povero migrante dalla periferia rurale, e questo era ovviamente una fonte di grande umorismo all'epoca. In molti scenari finisce per fare uno dei lavori tipici dei migranti poveri in queste città: lavorare come servo di un ricco mercante come il personaggio di Pantalone, per esempio anche come facchino, portabagagli, come la figura che vediamo qui sotto. E sappiamo che il mestiere del facchino nella Venezia rinascimentale era monopolio dei immigranti poveri, soprattutto dei bergamaschi. Quindi questo è basato sulla realtà della storia dell'epoca. Quindi possiamo dire, parlando dello Zanni, che il personaggio di questo migrante povero, rozzo, non istruito, era una fonte di grande intrattenimento per le folle urbane nelle strade di metropoli come Venezia nel Rinascimento. ma comincio con il personaggio dello Zanni perché da questa figura letteraria, teatrale, possiamo allagarci a una storia sociale molto più ampia. Anche se è impossibile contarli, in questo periodo c'erano migliaia di Zanni sulle strade dell'Italia e dell'Europa, spinti ad allontanarsi da casa, a volte temporaneamente, a volte definitivamente, dalla fame e dal bisogno, ma anche da guerre, da disastri e dalle persecuzioni. Quindi cito la storica Leslie Page Mock, che parla dell'epoca moderna in cui la stabilità era un privilegio, mentre la mobilità poteva offrire l'unica via per sopravvivere o forse per migliorare la propria sorte, creando quello che un altro storico italiano, Piero Camporesi, che è studiato, grande cronista di questo fenomeno, ha descritto come una popolazione flottante, un arcipelago di uomini in movimento oggi inimmaginabile. Un altro esempio di questo fenomeno che viene da non troppo lontano da qui è quello degli ambulanti dell'altopiano del Tesino in Trentino. Mio marito trentino mi ha corretto che è un altopiano, non una valle, come avevo scritto all'inizio. E quindi questi uomini cominciarono a spostarsi in Europa con viaggi stagionali a partire dalla fine del Cinquecento, vendendo immagini, opuscoli stampati a basso costo, come quelli che vedete sullo schermo, e che acquistavano dagli stampatori remondini nella città di Bassano. E l'intera economia dell'altopiano, dove c'erano pochissime altre opportunità economiche, cominciò a ruotare intorno alle attività di questi ambulanti dal 600 in poi, che erano sostenuti dalle loro mogli e dai loro figli, che restavano a casa ad occuparsi dei loro poderi. E questo è un altro esempio di quello che dicevo all'inizio, di come non si possa separare l'esperienza e l'impatto dei migranti dalla storia di coloro che sono rimasti a casa, immobilità e mobilità sempre intrecciati. E anche in questo caso, il caso dei Tesini, la mobilità era un'importante risorsa economica per coloro che altrimenti rischiavano la povertà assoluta. Tuttavia si trattava anche di un lavoro rischioso e faticoso. Anche se alcuni Tesini aprirono stamperie nelle grandi capitali Europa, anzi altri sono andati anche fino al Nuovo Mondo e si arricchirono, e questa è una foto di una villa nel paesino di Pieve Tesino in Trentino, costruito di uno di questi ambulanti Tesini che si è arricchito nella vendita delle stampe, però molti semplicemente si indebitarono con i ricchi editori bassanesi che li rifornivano. E da qui viene il proverbio tesino che i santi, cioè le immagini dei santi dei remondini, gamagnai i campi dei tesini, scusate il mio dialetto. Va aggiunto che non erano solo gli uomini a migrare per queste ragioni, quindi fino adesso sto parlando soprattutto degli uomini come migranti. Sebbene le donne fossero meno propense a spostarsi, soprattutto su lunghe distanze durante il Rinascimento, erano comunque molte quelle che migravano per cercare lavoro. Per esempio i flussi di ragazze, donne, alcune giovanissime da 10 anni in poi, in su, che si spostavano dalle campagne alle città per lavorare come domestiche o per iniziare un apprendistato, per esempio come tessitrici o sarte. E ci sono anche casi di vedove, di donne più avanti negli anni, che erano anche immigranti nelle città italiane in questo periodo. Le donne migranti più giovani erano considerate particolarmente vulnerabili. E, per esempio, nella Venezia del Cinquecento il governo introdusse delle leggi per cercare di evitare che le giovani ragazze giunte nella metropoli per lavorare come domestiche venissero invece attirate nel mondo della prostituzione. E in effetti la maggior parte delle lavoratrici del sesso in Venezia, come in altre città, era costituita da migranti, dalle donne migranti, poiché questa era una delle poche professioni aperte alle donne povere in questo periodo. E come vedremo più avanti, la loro estraneità rendeva queste donne doppiamente vulnerabili, come quando venivano espulse in certe occasioni in massa dalle città. Darò qualche esempio più avanti. Quindi, come suggerisse questo esempio, le esperienze di spostamento erano molto diverse a seconda di fattori come il sesso, la classe, ma anche l'età, la razza e la religione. E volevo menzionare anche, oltre a coloro che furono costretti a spostarsi a causa di fattori come la povertà e la fame, dobbiamo ricordare che molti furono costretti ancora a farlo con la violenza, completamente contro la loro volontà. Gli europei del Rinascimento e gli italiani in particolare impiegavano ancora numerosi schiavi o ex schiavi provenienti da regioni come il Caucaso e l'Africa, come ci ricorda anche questa immagine del Seicento. Le vite di questi migranti forzati ovviamente sono forse le più difficili da documentare, ma comunque bisogna provare in qualche modo. Infatti la storica inglese Kate Lowe ha svolto un lavoro meraviglioso ricostruendo i percorsi di alcuni degli schiavi liberati provenienti dall'Africa subsahariana nella Venezia del Rinascimento, alcuni dei quali divennero traghettatori o gondolieri, come vediamo da questa del taglio di questa immagine di Carpaccio. Ok, quindi adesso arrivo alla seconda parte della presentazione. Dopo aver esaminato alcune tipologie di persone in movimento in questo periodo, e in particolare quelle spinte dalla povertà, vorrei ora concentrarmi sul modo in cui queste persone si sono mosse attraverso alcune delle infrastrutture di mobilità e controllo che ho menzionato all'inizio, e su come queste infrastrutture, questi luoghi e spazi possono aver dato forma all'esperienza di migrazione e mobilità. Quindi, parlando di Rinascimento, stiamo parlando di un periodo di sviluppo importante delle infrastrutture di trasporto, per esempio in Europa, sviluppo che rese gli spostamenti, almeno per alcuni, più facili, più economici, più veloci, più sicuri, più affidabili, soprattutto lungo le grandi direttrici del continente. Qui torno a un'altra versione della mappa che ho mostrato prima, è una mappa della rete postale che ci ricorda come Trento e Bolzano, ad esempio, erano tappe importanti della nuova via postale tra l'Italia e il Sacro Romano Impero, che si sviluppò a partire dalla fine del 400, come ha studiato anche Francesco Brunet. Questa rete è molto importante perché significava non solo una trasmissione più rapida delle informazioni e delle notizie, ma anche una costellazione di stazioni di posta, spesso situate in locande o osterie, lungo i percorsi principali, dove i viaggiatori potevano noleggiare cavalli, per esempio, anche salire su una carrozza pubblica che partiva a intervalli regolari, quindi a conseguenze importanti per la mobilità in generale. Questo nonostante, la maggioranza, la stragrande maggioranza delle persone si spostava ancora a piedi, come ci ricorda questa immagine. Naturalmente questo è il caso dei migranti più poveri, ma non solo. I viaggiatori a piedi avevano poco protezione dalle condizioni meteorologiche avverse e dagli altri pericoli della strada, che in questo periodo erano notevoli. Tuttavia, molti rimane il fatto che molti viaggiassero a piedi, almeno per una parte dei loro spostamenti, e questa è una cosa che possiamo capire per esempio dai questi diari di viaggi di cui parlavo prima. Infatti troviamo casi di viaggiatori più abbienti che sceglievano di travestirsi da poveri, di viaggiare a piedi e di cercare in quel modo di confondersi con la popolazione flottante, in quanto ciò li rendeva meno bersaglio di briganti o dei ladri sulle strade. Quindi in quel caso la povertà, o almeno la sua apparenza, poteva offrire una sorta di protezione. E comunque dobbiamo anche ricordare che i viaggi erano particolarmente faticosi, o immaginare che erano faticosi per coloro che non potevano permettersi alcun mezzo di trasporto o aiuto e che erano costretti a portare le proprie cose sulle spalle, fino a includere anche i bambini, come in queste immagini, in alto un'incisione di Rembrandt di una famiglia di poveri con la moglie che porta il bambino sulle spalle, e in basso il personaggio dell'Arlecchino, sempre della commedia dell'arte, che è un po' l'evoluzione del personaggio dello Zanni, che è qui raffigurato sulla strada portando i figli in un cestino sulle spalle, oltre a altri attrezzi tipici del viaggiatore, il bastone, una spada e anche una ciotola per il cibo, che tra l'altro vediamo anche in questa immagine del viandante di Bosch. E possiamo anche pensare, riflettendo su questa l'esperienza di viaggiare a piedi in questo periodo, bisogna menzionare anche pesanti zaini, cesti degli ambulanti, come questa ovviamente è una fotografia più recente, è un'immagine dal meraviglioso museo per via in Pievetesino, che mostra cassette dell'ambulante. Quindi possiamo immaginare qualcosa simile anche nel Rinascimento. Ha menzionato anche gli strumenti dei musicisti, un'altra categoria sociale molto mobile e spesso anche difficile da distinguere dai poveri vagabondi. Qui vediamo due esempi, uno un ritratto di un musicista di strada e l'altro di un mendicante con il suo strumento musicale, e vedremo anche più avanti i legami tra questi due gruppi, dai musicisti itineranti e i mendicanti vagabondi. Quindi mi interessa molto, e lo scrivo una piccola parte del mio libretto, sulla cultura materiale anche dei viaggiatori più poveri, poiché ciò che portavano in viaggio erano probabilmente le poche cose che possedevano o di cui avevano bisogno per sopravvivere e per fare il loro lavoro. Oltre alle modalità di trasporto, possiamo pensare anche alle infrastrutture dell'ospitalità, degli alloggi. A partire dal Medioevo, nelle città e lungo le principali arterie di pellegrinaggio d'Europa, proliferarono ospedali e ostelli per il ricovero dei viaggiatori, che offrivano almeno qualche letto ai viandanti bisognosi o spesso appunto ai pellegrini. Questo è un esempio dalla città di Siena. O anche ospedali per i poveri malati, che sempre più spesso affluivano nei centri urbani per essere curati. Tuttavia questi spazi caritatevoli di accoglienza per migranti o viaggiatori non erano generalmente aperti a tutti e si rivolgevano invece a gruppi particolari, per esempio ai pellegrini. A volte venivano anche erette strutture più temporanee per ospitare i poveri migranti, soprattutto in momenti di crisi, crisi migratorie. Questo è un esempio studiato recentemente da una storica dell'architettura, Danielle Abdon, un caso di un capannone eretto all'estremità orientale di Venezia negli anni 70 del 400, che vediamo in basso il dettaglio della veduta di Venezia, di questa zona, nella parte orientale di Venezia, dove erano situato questo capannone, eretto per far fronte all'afflusso di migranti poveri che dormivano sotto i portico e nei portoni del palazzo ducale in pieno inverno. E probabilmente si trattava per lo più di profughi in fuga, profughi di guerra dalle colonie veneziane nel Mediterraneo, che in quell'epoca furono attaccate dagli ottomani, e che quindi lo Stato veneziano ritiene di dover trovare una soluzione sia per spostarli dal centro, sotto i portoni del Palazzo Ducale, ma anche per aiutarli a trovare lavoro e a stabilirsi. In altri momenti di crisi, comunque, i poveri stranieri venivano semplicemente espulsi dalla città di Venezia e anche da altre città. Tuttavia, nel mio libro descrivo anche come nel tardo Medioevo, il tardo Medioevo in Europa ha visto anche una proliferazione di strutture ricettive commerciali per soddisfare il numero sempre maggiore di persone che arrivavano nelle città, quindi parlando di locande, taverne, anche camere locande, locali che spaziavano da quelli più grandi e lussuosi a quelli più economici e malandati, e troviamo anche casi di migranti più poveri che alloggiavano nelle locande, per esempio. Però possiamo guardare soprattutto le osterie rurali nei zone di transito e di passaggio come spazi particolari di incontro tra tipi di persone molto diversi, tra migranti, viaggiatori diversi. E qui cito lo storico Hans Heiss, che sostiene che nessun'altra arena sociale superava la qualità dell'osteria di abbracciare tutte le classi, nemmeno la chiesa locale. Lui cita l'esempio di una locanda tirolese del Cinquecento, per esempio, che ospitò l'imperatore dell'Impero Sacro Romano e poi pochi giorni dopo ospitò dei contadini che dormivano sulla paglia. Quindi tanti tipi di viaggiatori diversi. E da notare che le osterie erano anche importanti luoghi di lavoro per i venditori ambulanti, poveri, e anche musicisti o intrattenitori itineranti. E qui vediamo due esempi, una a sinistra di una taverna romana con degli acrobati e dalla a destra di un'osteria tedesca. E anche la citazione dal diario di viaggio di Montaigne, che parla di come in Italia in ogni osteria si incontrano rimatori che improvvisano sul momento composizioni adatte agli astanti. Nelle grandi città come Venezia, se i migranti più poveri non potevano sempre permettersi un letto in un'osteria, che come oggi Venezia non era economico, e potevano comunque a volte trovare alloggio nelle numerose albergherie o camere locande e a basso costo che si raggruppavano nei quartieri centrali, tipo Airbnb premoderno, case che affittavano letti o camere. E questo, per darvi un'idea, questa è una mappa che ho creato di queste case albergarie, in solo due anni nei documenti veneziani l'ubicazione di queste case, solo quelle ufficiali, quelle che avevano la licenza di affittare camere o letti, invece sappiamo che c'erano anche molte altre case senza licenza, e come vediamo da questa mappa erano ubicati soprattutto attorno alla piazza di San Marco, nelle zone centrali. E perché sono interessanti queste case, secondo me? E, per vari motivi. Il governo veneziano si preoccupava sempre di più di queste case, soprattutto della diffusione di malattie, oltre che di disordine e immoralità, in queste case che ospitavano spesso mendicanti e vagabondi stranieri. E per dare solo un esempio che ho trovato negli archivi, e ci sono molti altri, 1555, una certa donna ironima che affittava camera fu punita per aver ospitato furfanti e mendicanti nella sua casa, nella parrocchia di Santa Maria Formosa. E come dicevo, ci sono molti casi simili. E quindi questo è importante, secondo me, da sottolineare, perché sebbene fossero considerati sgraditi dalle autorità, questi migranti furfanti, mendicanti, trovavano comunque ospitalità presso alcuni degli abitanti della città, che vedevano così un modo per trarre profitto dalla loro presenza. Che significa che l'offerta di alloggi anche ai migranti più indesiderati poteva essere anche una risorsa importante per i poveri più stanziali, e spesso troviamo che i locandieri, quelli che affittavano camere e letti, furono loro stessi migranti abbastanza recenti, spesso donne, spesso vedove, insomma persone che cercavano un modo di guadagnarsi il pane. I casi degli albergatori puniti, come Donna Ironima, per aver ospitato mendicanti, ci porta al mio ultimo argomento di oggi, che è il controllo della mobilità, in particolare della mobilità dei poveri. E anche qui il Rinascimento fu un periodo di sviluppo in termini delle infrastrutture di controllo e sorveglianza dei migranti e di viaggiatori. Oltre alle mura e alle porte che proteggevano la maggior parte delle città, già dal Medioevo, come in questo esempio della città di Siena, furono sviluppati in questi secoli nuovi sistemi per monitorare chi entrava e usciva da una particolare città o territorio, e molti di questi sistemi facevano uso di nuove forme di identificazione scritta o anche adesso stampata, che sono pratiche precursori dei visti e dei passaporti dei nostri giorni. E quindi entrare in una città rinascimentale via terra significava di solito attraversare le mura attraverso una porta, come vediamo in questo esempio della città di Norimberga, dove vediamo le porte, una porta in particolare con il simbolo delle autorità asburgiche, con l'aquila. Per l'arrivo di persone importanti, questa poteva essere l'occasione per un'accoglienza cerimoniale, accuratamente allestita, con musica e sfarzo, ma per la maggior parte delle persone l'atto di ingresso era un processo complesso, più lento, spesso a più fasi, in cui i viaggiatori di ogni tipo potevano essere esaminati sia fisicamente che verbalmente. Si chiedeva loro da dove venissero, quale fosse il loro scopo e quanto tempo avessero intenzione di rimanere. Quindi la missione di una persona e il tipo di accoglienza che riceveva dipendeva da numerosi fattori, dall'abbigliamento al mezzo di trasporto, e dal possesso di passaporti, lettere di salvacondotto e altri documenti ufficiali, e dalla capacità anche a volte di corrompere le guardie. E tutto questo permetteva alle porte di funzionare come una sorta di filtro sociale, nelle parole di uno storico, dello storico Daniel Hutter, usato per evitare arrivi indesiderati. Le autorità in molte città divennero sempre più intolleranti nei confronti di mendicanti e vagabondi stranieri che si temeva avrebbero costituito un peso per le risorse locali, causato disordine o importato malattie. Se torniamo al caso, mio caso preferito di Venezia, ovviamente Venezia non aveva le mura, era circondata dalla sua laguna protettiva al posto delle mura, e qui invece erano i baccaruoli che trasportavano le persone dentro e fuori la città ad agire un po' come guardiani di fatto. Questi traghettatori dovevano informare i nuovi arrivati sulle leggi e i regolamenti locali, per esempio la necessità di ottenere un certo tipo di licenza o visto. Dovevano impedire il passaggio di persone sospettate di portare malattie o addirittura espellere o deportare migranti indesiderati come mendicanti, vagabondi o prostitute straniere in varie occasioni. E qualche esempio, questo è il primo esempio del 1529, un periodo di gravi carestie e disordini sulla terraferma. I provveditori alla sanità veneziani vietarono il trasporto di questuanti forastieri nella città. Qualche anno dopo ai baccaruoli fu vietato di condurre in questa città furfanti, specialmente piemontesi, non so perché piemontesi. In questi casi si faceva spesso, infatti sempre di più, distinzione tra poveri locali e stranieri. Sempre nel 1529 si ordinava che mendicanti forestieri siano spediti nei loro territori, mentre nativi infermi e senza domicilio siano distribuiti negli ospedali, cioè le istituzioni caritatevoli della città. In altre parole, molti dei poveri migranti furono costretti a rimettersi in movimento, vietando loro di stabilirsi a Venezia e di diventare così un peso o una minaccia per la comunità locale. Quindi possiamo già notare come, oltre che dalle crisi di scarsità di cibo, molte delle misure di controllo della mobilità erano motivate dai timori per la diffusione delle malattie, in particolare della peste. Come andiamo con il tempo? Ancora 5-10 minuti, va bene? Ok. Quindi anche qui Venezia è un caso molto interessante perché era una città particolarmente vulnerabile alle epidemie. Perché era un centro di transito, di migrazione, di commercio, appunto, e di conseguenza fu all'avanguardia nello sviluppo di misure per contenere la diffusione di malattie contagiose, molte delle quali, anche conosciamo bene dopo gli ultimi anni, utilizzate ancora oggi: isolamento dei malati, quarantena di aree urbane, divieto anche di viaggiare da o verso luoghi infetti. E qui vediamo sullo schermo un esempio di un'altra, se vogliamo, tecnologia di controllo sperimentata dai veneziani in questo periodo, che erano i bollettini di sanità, tipo di Green Pass, avevo la lettera, che dichiaravano che il portatore proveniva da un luogo sicuro e quindi poteva entrare in una città o un territorio. Questo è un esempio da Bologna. Ma ottenere un bollettino richiedeva tempo e costava denaro, quindi possiamo immaginare che questo sistema fosse pensato anche per, un certo senso, ostacolare gli spostamenti dei poveri mobili, che erano continuamente associati alla diffusione di malattie come la peste. E questi controlli anche sul settore dell'alloggio, sia le osterie ma soprattutto le camere locande, era anche spesso guidato dai timori dei contagi in queste case sovraffollate di mendicanti. e vagabondi. Insomma, questo periodo fu caratterizzato da un'accentuata diffidenza nei confronti dei poveri, in particolare dei poveri mobili o in movimento o stranieri, e non solo a Venezia. Alcuni storici hanno descritto il Rinascimento come un'età degli impostori, è un'epoca molto attenta ai falsi e ai travestimenti. E gran parte di questa tensione e ansia era rivolta ai poveri migranti, sempre più numerosi. Scusate, vado indietro. Secondo i cataloghi popolari dei falsi mendicanti e dei vagabondi che sono stati pubblicati in questo periodo, questi poveri potevano travestirsi da frati, da pellegrini, da sacerdoti o fingere disabilità o malattia per ottenere la carità. E qui vediamo un'immagine di forse di questi falsi, tipo di falsi pellegrini mendicanti. Lo storico americano Cebu Aslanian parla anche di una più ampia crisi di riconoscibilità della prima età moderna, che secondo lui era essa stessa un sintomo di una più ampia crisi del vagabondaggio e della mobilità. Per questo motivo professioni itineranti come per esempio i venditori ambulanti, musicisti, attori itineranti, di cui ho parlato prima, cercarono di distinguersi dai mendicanti e dai vagabondi e di conseguenza di non avere la loro mobilità troppo limitata o controllata o appunto di essere trovarsi anche espulsi da varie città. Per esempio in Inghilterra c'è una legge sui poveri del 1572 che introdusse misure severe contro tutti coloro che venivano identificati come i vagabondi, compresi gli ambulanti, menestrelli, attori. Allo stesso tempo, però, e questa è la mia ultima osservazione, è importante sottolineare che molte autorità locali riconoscevano che certi tipi di mobilità e di migrazione potevano essere una risorsa per i poveri e dovevano essere quindi autorizzati, essendo preferibili ad altre attività come l'accattonaggio o la criminalità. Solo due esempi, uno da Siena, primo 600, dove la cooperazione dei cattolai e dei librai permetteva ai poveri che vagano vendendo calendari, immagini stampate, eccetera, di essere autorizzati a vendere con una tassa ridotta o senza alcuna tassa a causa della loro povertà e del piccolo valore dei beni che hanno da vendere. E troviamo casi simili anche in altre città, Venezia, Firenze, questa è una sinistra, una incisione di Bologna del 600 di venditori di immagini. E poi un esempio dalla Spagna, dove le compagnie di ciechi erano permessi di andare in giro a cantare e vendere preghiere stampate, sempre come forma di carità. Ma soprattutto si tratta di forme di mobilità, in questi casi su scala ridotta, di solito di poveri locali, in qualche modo supervisionate da organizzazione, cooperazione e autorità locali. Quindi, per concludere, le città rinascimentali volevano tenere le porte aperte ai viaggiatori e agli immigranti che avrebbero potuto portare commercio o competenze utili alle loro comunità. Città come Venezia, che in questo periodo crebbero enormemente grazie all'immigrazione, ne trassero indubbiamente benefici economici e culturali. Ma con un numero sempre maggiore di persone in viaggio in questo periodo e con l'intensificarsi delle crisi, dalle guerre alle epidemie, agli scismi religiosi e altri, anche queste stesse città si sforzarono sempre di più di sviluppare meccanismi che permettessero loro di filtrare gli elementi sociali problematici che erano considerati portatori di malattie, cause di disordini o che non davano un contributo economico utile. Capire come questi diversi flussi di mobilità scorrevano l'uno accanto all'altro gli spazi che attraversavano e i regimi che cercavano di controllarli, secondo me ci aiuta a comprendere meglio non solo le esperienze delle persone in movimento, ma anche le storie delle comunità che le ricevevano, le accoglievano o le respingevano. Grazie. Funziona, sì. Ti ringrazio molto, Rosa, per questa interessantissima e suggestiva panoramica delle, diciamo, delle varie dimensioni della mobilità, le reti, gli spazi, i gruppi sociali, le connessioni, come hai sottolineato più volte, tra mobilità e stanzialità, i moventi che spingevano alla mobilità, e allo stesso tempo i sistemi di controllo, di gestione, le percezioni, che è un altro punto secondo me fondamentale, le percezioni anche fluide, no? Le identità e le percezioni fluide. Davvero è stato molto interessante. Vorrei aprire, prima di farti qualche domanda, vorrei innanzitutto dare la parola al pubblico, se avete qualche domanda, qualche curiosità. Siglinde e Clementi. Ah, come? Sì, stiamo registrando. Grazie mille per la relazione bellissima. Io avrei una domanda su questa società. Mi sembra molto ambivalente, diciamo, da un canto molto ristretta, molto ristrettiva nelle leggi anche, solo chi ha il permesso di stare nella città, cioè leggi molto restrittive, e quindi un crescente gruppo di chi non ci poteva stare, di chi non poteva essere cittadino o tollerato o cos'altro. E quindi un grosso problema di non integrazione, diciamo, nella società, no? E ecco, cosa pensava lei di questo, e di questa ambivalenza? E poi mi sono mancati un po' i malati, ha citato i malati, ma soprattutto i malati psichici, di cui ci parla anche Foucault, soprattutto, e anche criminali, no? Perché i criminali, quelli che venivano proprio mandati via, quindi erano proprio destinati a una vita fuori dai luoghi, insomma. Ecco. Grazie. Sì, ambivalenza è una buona parola per descrivere queste società, perché, come dicevo all'inizio, c'è, come oggi, questa tensione tra città che, parlando sempre, perché il caso che conosco meglio è di Venezia, una città che, come in realtà tutte le città dell'epoca, avevano bisogno di migranti per crescere, l'unico modo di crescere è una città. Era di migrazione, e nel caso di città come Venezia anche le industrie locali, il commercio, tutto aveva bisogno di manodopera di vari tipi, che di marinai, di soldati, e quindi avevano bisogno di migranti. Però Venezia, per esempio, è una città che cresce molto e velocissimamente, tra 400-500 cresce di 50% per diventare, come dicevo, una delle città più grandi dell'Europa, e quindi ci sono, come vediamo anche oggi, problemi di integrazione, però di crescita di paure, di timori in confronto degli immigranti, soprattutto, devo dire, immigranti i più stranieri, quelli che avevano un'altra religione, i pochi, per esempio, africani, quelli che non parlavano la lingua. Possiamo dire che i migranti dalla terraferma, per esempio, anche se parlavano dialetti diversi, come l'esempio dello Zanni, furono integrati più facilmente, chiaramente, anche perché avevano le loro comunità, avevano le loro associazioni, confraternità che li aiutavano a integrarsi, a trovare lavoro, a trovare alloggio. Però Venezia è interessante anche perché si sviluppa modi di segregare certe comunità di stranieri, di migranti, come per esempio il ghetto per gli ebrei, che fu costruito all'inizio del Cinquecento, come modo di incarna questa ambivalenza, perché vuol dire che gli ebrei possono venire a Venezia perché sono utili all'economia locale come prestatori di soldi, però devono stare a parte, e questo è il modo dei veneziani di gestire la presenza degli altri, e lo facevano anche per altri gruppi di stranieri. Disabili, malati, criminali, cosa posso dire su quelli? Sì, spesso questi vagabondi, mendicanti di cui parlavo, sono anche, per esempio, banditi da una città, che sono costretti, come dicevo, a spostarsi, e quindi non sono desiderati in città, in altre città, appunto per questo motivo. Per esempio, sempre a Venezia parlano di impongono nuove regole sull'immigrazione in certi momenti del Cinquecento, perché hanno paura anche di questi, parlano dei bravi, questi briganti che venivano a Venezia con le armi e tutto, criminali in effetti, che ovviamente suscitavano molti timori, molte paure in questo periodo. Sui malati psichici è una buona domanda, ma non devo dire che non so molto. Ci sono in questi cataloghi dei vagabondi, dei falsi mendicanti, ci sono, se mi ricordo bene, forse esempi anche di questo tipo, ma devo ricontrollare. Ma è una buona domanda, grazie. Altre domande? Allora, tra i tanti migranti, che gente che andava da un luogo all'altro, ci sono anche tracce della comunità dei Sinti, che da sempre, no, provenienti dall'Oriente, viaggiavano e avevano anche dei mestieri tipici, come già lei li ha elencati, musicisti, artigiani, venditori di cose che magari portavano da un posto all'altro. Ci sono tracce anche come una particolarità di questi viaggianti? Sì, assolutamente, sicuramente, sia nei fonti più letterarie, come appunto questi cataloghi di vagabondi, anche nelle commedie a volte, appariscono, però anche nelle leggi di stati come Venezia, altri stati dove ci sono spesso espulsi, tra quelli espulsi con i vagabondi, mendicanti, attori, altri gruppi. Infatti, quando Francesca è venuta a Trento a fare una bellissima relazione sui zingari nella epoca più recente, ho trovato nelle mie note un caso, sembrava molto simile, dal Cinquecento, in cui vengono esplicitamente espulsi, e anche credo si poteva anche ammazzarli, proprio una cosa terribile. Adesso non ce l'ho portata di mano. Comunque, assolutamente ha ragione, spesso fanno questi lavori che ho citato qui, musicisti, venditori. Quindi queste sono le strategie tipiche di gruppi marginalizzati del periodo, di mettere insieme mobilità con questi tipi di lavori improvvisati. Quindi troviamo anche ebrei, anche vari tipi di poveri migranti che fanno questi tipi di lavoro, ma assolutamente anche sì, anche Sinti, anche Zingari. Grazie. Altre domande? Forse? Indubbiamente l'esposizione è generale. E volevo sottolineare che forse poteva essere sottolineato l'esistenza del sistema del VALS, del TIP, cioè di tutta l'emigrazione giovanile che, completati i lavori artigianali di addestramento nelle varie attività, nelle botteghe, arrivavano ad un certo punto e per regolamenti precedenti al Rinascimento, già medievali, erano tenuti a compiere 3 anni, anche 2, ma insomma diversi anni, di vita indipendente e migrante per apprendere le malizie del mondo. Semplifichiamo. Per cui, se fosse il caso, sarebbe utile presentare anche questo sistema, il sistema dei pozzi, cioè della possibilità per i giovani di recarsi presso precisi luoghi di collegamento con il mondo del lavoro locale e ottenere una sia sicurezze sia garanzie sia sociali che economiche attraverso un sistema corporativo che è durato praticamente fino agli anni 30 e adesso addirittura qualcuno sostiene che sta riprendendo, no? Per cui accanto al B&B, agli affittacamere, metterei come elemento centrale proprio la questione del cosiddetto pozzo di Mambre, dove questi giovani potevano trovare una primissima ospitalità, consigli sul lavoro ed altre occasioni. E poi sottolineerei l'importanza enorme degli zingari, tutte le ordinanze sugli zingari che nascono nel 500 e la questione grossa di Venezia che attraverso il ghetto costituisce un sistema di protezione degli israeliti in fuga, dando motivo a tutte le città europee di conformarsi a un sistema che veniva considerato accettabile per le comunità in rapporto ai principi che volevano gli ebrei e i mercanti che li rifiutavano. Ecco, questi due o tre punti potrebbero essere oggetto di altre osservazioni. Grazie. No, grazie, certo. Infatti avevo scritto qualche riga sui Wanderjahr, anni di viaggio per i giovani artigiani, li avevo tolti per paura di andare oltre i miei 50 minuti, e che, come ha detto lei, coinvolgono anche spazi, luoghi specifici in molte città per accogliere appunto questi giovani artigiani, quindi anche molto interessante. Anche nel mio libro scrivo qualcosa su questo, e anche appunto sì, Venezia come un esempio, e questo esempio del ghetto di Venezia è molto influenziale anche su altre città italiane e oltre, e come dicevo prima, come modo di espressione dell'ambivalenza su come accogliere migranti problematici dal punto di vista religioso, però utili all'economia locale. Quindi è assolutamente un esempio molto molto importante. Grazie. Qualcun altro? Bene. Allora, ringraziamo. Grazie, ringrazio allora di nuovo Rosa Salzberg per questa bellissima relazione. Vi ricordo il prossimo appuntamento del ciclo di conferenze, che sarà lunedì prossimo, 16 ottobre, alle ore 20, presso la Biblioteca Provinciale Tesman. Continueremo la nostra esplorazione, diciamo, nella storia della mobilità, nella storia dei nessi tra mobilità e povertà, spostandoci cronologicamente un po' più avanti tra XIX e XX secolo, con la conferenza di Beate Althammer, che ci parlerà di vagabondaggio, povertà, mobilità e mendicità nell'epoca dell'industrializzazione, una conferenza che ci mostrerà come, diciamo, le forme di mobilità associate alla povertà, che ha illustrato molto bene Rosa Salzberg in relazione alla prima età moderna, ecco, non sono affatto fenomeni caratterizzanti solo quell'epoca, ma anzi conoscono nuove accelerazioni.